Waterproof. Yeah, e questa è un'altra. G.O.S. Pacos. G. G.O.S. Madman. Jimmy Tights. DJ Arch. Arch Time. Waterproof. Senti. Frate. Fratella, impasto piano, yeah. E mi devasto il cranio, yeah. Non ho niente da perdere come un ergastolano, yeah. In mezzo a questa merda, yeah. Sono rimasto sano, yeah. Sorridi mentre ti lanciano in casa il gas propano. Vai. E ogni colpa è mia, hey. Ogni lotta è real, yeah. La speranza è una stronza da una botte via. Letto sogno di vincere il biglietto della lotteria, hey. Perché ora valgo come un sacchetto di bigiotteria. Vai. E tutti i giorni guardo nell'occhio chi ci crede, hey. Che me strilla frate stai tranquillo vincerete. La verità è che per quanto tu ce possa spingerete, hey. Un deserto di stronzi e noi comincia già venice sete, eh. Perciò saltiamo i pasti e non dormiamo la notte, nah. Fumiamo l'anima e ci cambiamo la sorte, yeah. Costretti a scrivere bruciando sul tempo la morte, che? Mi sembra di vivere dentro la orde, oh. Non puoi spegnere la porta che ho, oh. Devo far vivere le strade e poi devi riprenderti in mano il mondo che vuoi. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. La mia merda scaturisce dalla frustrazione. Nei dischi lo si intuisce una degustazione. Ogni giorno pronto per fare una buona azione. L'intenzione va già via prima di colazione. Devo spaccare per sempre senza diffondere. Devo spalare le merde senza rispondere. Con tutto ciò continuo a farti mordere la polvere. Ma è sempre più difficile dissolvere le collere. Non voglio premi, solo ciò che mi devi. Fumo di più di Devin, con lupi come Kevin. Dalla lucidità alla pazzia, Monaco in abbazia. Sogno la tarassia come Slevin, yeah. E se ogni giorno scrivo un verso più forte per me stesso ed ogni supporter, yeah. Inizia dal cuore, la voce al dolore si mixa. Il mio rap croce delizia, hey. Non puoi spegnere la porta che ho, devo far vivere le strade e poi devi riprenderti in mano il mondo che vuoi. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Scappa via da questo posto. Attenti stretti frate, sopravviva sta merda di città, di nazione d'erba c'è la riserva, rotta de collo, rompi del collo, a me mi rompi il cazzo, sei solo un altro pollo da non prendere in considerazione, sei un'altra sola, faccio rumore nel giro come corpi di pistola e riesco a prendere attenzione, attenzione, va arriva al mio livello, non basta l'ascensore, piscio un culo ad ogni professore, assessore, senatore, a vita, io sto rota de fica, non so distinguere una puttana da chi me d'amore, visto che l'amore fa male come l'ortica, mica me piongiro da solo, so ciò che provo, odio, te l'assicuro, non gioco, anzi non giocavo, ma amavo, adesso no, adesso faccio fuoco, non me frega di chi colpirò. Non puoi spegnere